Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Si sta tenendo in questi giorni la Green Week delle Venezie, una settimana verde iniziata lunedì 20 maggio a Padova. È stata definita anche il primo forum dei sindaci a spreco zero perché ha riunito un migliaio di sindaci e una quarantina di studiosi di tutta Italia ed è dedicata proprio alle buone pratiche che le amministrazioni pubbliche si impegnano a svolgere per ridurre gli sprechi alimentari ed energetici nei diversi ambiti di attività di loro competenza. L'iniziativa nasce a seguito della carta Spreco Zero, un documento ideato da Andrea Segre con Last Minute Market, lo spin-off dell'Università di Bologna, divenuto un'eccellenza nota a livello europeo nel recupero degli sprechi alimentari. Ecco, questa settimana verde per noi è un po' lo spunto proprio di entrare nel tema e ne parliamo oggi con Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politiche Ambientali della Fondazione Lanza, che ha di recente scritto anche un articolo proprio su queste tematiche. Benvenuto in trasmissione, Matteo. Grazie dell'invito. Ecco, intanto che cos'è la Fondazione Lanza, così inquadriamo la questione? La Fondazione è un centro studi nel campo dell'etica, voluto dal Vescovo di Padova, allora Franceschi, nell'88. Al suo interno ha quindi un'attività di ricerca, di formazione e anche di divulgazione attraverso pubblicazioni, e al suo interno operano tre progetti, uno più di ricerca fondamentale sull'etica e la filosofia e due progetti di etica applicata, uno sulla bioetica e l'altro, quello che coordino io, etica e politiche ambientali. E quindi promuoviamo, nel mio specifico, una nuova cultura di attenzione ai temi dell'ambiente e della sostenibilità, o se volete i temi del creato nel suo insieme. Ecco, questa settimana appunto abbiamo i sindaci, quindi si parla di amministrazioni che possono ridurre i loro sprechi. Di che cosa stanno parlando appunto in questi giorni e che cosa le amministrazioni possono fare per ridurre gli sprechi delle amministrazioni, ma immagino anche dei cittadini? Ma questa iniziativa del Sindaci a Spreco Zero è un'iniziativa che rientra in una campagna europea contro lo spreco alimentare e contro lo spreco, come dire, dei beni ambientali, ed è una campagna che sta promuovendo la realizzazione per l'anno 2014 dell'anno europeo contro lo spreco alimentare, quindi è un percorso che si sta facendo per riportare al centro dell'attenzione questo tema dello spreco, come anche per evidenziare, come dire, le contraddizioni di questo nostro tempo, un tempo che, come dire, in qualche modo evidenzia grandi problematicità, grandi difficoltà, ma sul quale sarebbe opportuno incominciare a capire anche quali iniziative si possono mettere in campo per migliorare, per rendere più efficiente il nostro modello di sviluppo, il nostro modello produttivo, la nostra società, per rendere anche più civile questa nostra società, che per esempio il tema dello spreco evidenzia come quanto siamo poco civili rispetto alle quantità di alimenti o alle quantità di beni ambientali che buttiamo. Ecco, su questo fronte ovviamente tutti siamo chiamati, le amministrazioni locali possono svolgere ruoli estremamente importanti, sia sul concreto spreco, per esempio favorendo percorsi di recupero, attraverso, come pensiamo, Last Minute Market, quindi attraverso anche il recupero attraverso società, attraverso associazioni per recupero di dove lo spreco, di dove i beni alimentari sono in scadenza, ma anche attraverso comportamenti virtuosi da parte dell'amministrazione stessa, che possono favorire comportamenti migliori da parte dei cittadini. Nel concreto parliamo di mense, visto che stiamo parlando di questioni di sprechi alimentari. Parliamo anche di, per esempio, di grande distribuzione, quindi di supermercati, dove tutti i prodotti che sono in scadenza vengono automaticamente gettati, tolti dagli scaffali e gettati, e vanno ad alimentare ovviamente la produzione dei rifiuti. Ecco, ci sono anche state fatte delle statistiche per capire un po' di che dimensioni stiamo parlando a livello di dati, di che tipo di risparmio. Sì, i dati sono, come dire, evidenziano la grande contraddizione, insomma. Per l'Italia, secondo il libro nero sullo spreco alimentare coordinato da Segre, abbiamo la filiera che riguarda la produzione, ma anche la lavorazione, la distribuzione della la filiera, quindi agroalimentare, genera una quantità di spreco che è equivalente a 12,5 miliardi di euro all'anno. Una bella cifra. E a cui se aggiungiamo lo spreco alimentare domestico, legato quindi ai consumi delle famiglie, il valore raggiunge i 15 miliardi di euro all'anno. Ora, il nostro nuovo governo sta in questi giorni o da settimane discutendo sull'IMU e dove trovare 4 mila miliardi. Oggi sta discutendo di dove trovare i 3 mila miliardi per non far aumentare di un punto l'IVA. Ecco, lo spreco alimentare, solo lo spreco alimentare, solo se lo guardiamo dal punto di vista economico, vale 15 mila miliardi di euro all'anno. Questo vuol dire, come dire, la grande contraddizione, il grande valore su cui si potrebbe agire per effettivamente, più che parlare di spending review, cominciare a parlare di wasting review, cioè di una revisione delle sprechi, delle produzioni dei rifiuti nel nostro paese. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincero oppure hai avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa. E non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Mi servirebbe sapere strade già per aggirare tutte quante le barriere, quale sia la strada giusta per giustificare il male da alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male. Piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le mie pene e sopperire finalmente alla tua luce intermittenza per dotarmi di pazienza. In fondo mi è piaciuto a me una dita, allora fammi male, fammi male, fammi male, tanto male, fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di spreco, di riduzione degli sprechi. Ne stiamo parlando con Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politiche Ambientali della Fondazione Lanza. Abbiamo parlato di sprechi alimentari, non ci sono solamente sprechi alimentari. Per esempio, durante la Green Week, appunto, che citavamo prima, si parlava anche di sprechi di energia elettrica. C'è anche, per esempio, la questione delle plastiche, di cui l'Unione Europea sta iniziando ad occuparsi. Sì. Certamente, cioè lo spreco alimentare, come dire, è questo, come dicevo, la campagna. Poi è chiaro che se noi andiamo a guardare quello che è l'inefficienza nell'uso dei beni ambientali, possiamo toccare tutti gli aspetti. Pensiamo al consumo di suolo, pensiamo al consumo di acqua e di energia, pensiamo però anche alla pessima gestione dei rifiuti che attualmente sta avvenendo in Italia ma anche in Europa. Una recente lavoro dell'Unione Europea, un libro verde proprio per la revisione della una nuova strategia europea per i rifiuti di plastica sull'ambiente, mette in evidenza, come dire, questa dimensione di una scarsa efficienza dell'uso dei rifiuti. La plastica sostanzialmente, ci dice l'Unione Europea, non è riciclata adeguatamente, solamente una piccola parte viene riciclata e anche qui tante cose si possono dire, però stiamo sulle cose magari concrete, che in questo momento uno dice, vabbè, crisi economica, cosa vuoi che spendiamo soldi per? Ecco, l'Unione Europea ci dice che se noi riciclassimo tutta la plastica che produciamo, e quindi se al posto che buttare i rifiuti in discarica, di plastica in discarica o in incenerimento, li riutilizzassimo, potremmo risparmiare 72 miliardi di euro all'anno, potremmo aumentare il fatturato dell'Unione Europea di 42 miliardi di euro, creeremo 400.000 posti di lavoro. Questi sono i valori economici per la gestione dei rifiuti di plastica. Poi possiamo ragionare, lo spreco alimentare ci può portare alla gestione per esempio dei rifiuti del rifiuto dell'umido, no? E altro. Ecco, allora anche in questo caso l'Unione Europea sta dando un orizzonte nuovo in cui, attraverso misure di tipo legislativo, misure di carattere volontario, vuole indirizzare i governi e ovviamente all'interno dei singoli paesi poi il mondo produttivo a ragionare in termini differenti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti della plastica. Ecco, quindi lavorare di più sul riciclo, però cosa si può fare quindi da semplici cittadini, perché poi è quello che l'importante quotidianamente cosa fare, quindi da una parte seguire le classiche norme del riciclo, almeno nelle zone che ormai nel Veneto sono un po' dappertutto, in quasi tutto, tranne forse qualche centro grande, qualche centro storico, il riciclo classico, però anche aziende e amministrazioni pubbliche quindi devono seguire delle regole un po' più ferre, perché forse sono quelli che riciclano di meno. Ma sì, diciamo che, come dire, sul fronte dei singoli comportamenti dobbiamo, per adesso io parlo a Padova per esempio, il comune sta avviando la raccolta differenziata porta a porta, ma di fatto la città è prevalentemente ancora composta di cassonetti. Le città sono dove abita la maggior parte degli abitanti, quindi... Esatto, qui il fronte su cui bisogna lavorare sui comportamenti, legando al fatto che nei cassonetti a casa le persone dividano il materiale, perché se noi mettiamo la plastica o il vetro nel cassonetto del secco, quindi in quello grigio, tutto questo va in incenerimento, quindi non viene recuperato nulla. Se invece li mettiamo nel cassonetto del multimateriale, questi materiali vengono recuperati, quindi la divisione. Sul fronte ovviamente delle amministrazioni pubbliche, l'obiettivo è quello di spingere maggiormente il porta a porta, cioè una raccolta differenziata molto mirata, molto precisa, che rappresenta la modalità con cui si può effettivamente recuperare il maggior numero di materiale. Con questi due fronti, se vogliamo, quindi comportamenti individuali e scelte amministrative, devono andare nella direzione di raccogliere maggiormente, quindi riciclare una più forte raccolta differenziata, al fine poi di indirizzare i rifiuti che vengono raccolti il più possibile verso il loro recupero. Grazie Matteo. Con l'augurio quindi che possa crescere la percentuale di rifiuti riciclati e quindi siano sempre meno rifiuti, ci aggiorniamo per nuovi argomenti che tratteremo con te sicuramente nei prossimi tempi. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie. Arrivederci. Passiamo adesso ad alcune notizie, per stare in tema anche di rifiuti. Diciamo che questa settimana l'assessore Gianfranco Bettina, assessore all'ambiente del Comune di Venezia, ha dichiarato che chiuderemo entro quest'anno l'inceneritore di rifiuti solidi urbani tal quali di Fusina. Questo risultato, dice l'assessore, sarà reso possibile grazie alla scelta strategica di ridurre la produzione di rifiuti e di puntare a una raccolta differenziata spinta che, con il nuovo sistema dei cassonetti a calotta, sta portando la città a livelli record in Italia e al loro riciclaggio, trasformandoli in nuova materia prima o in energia. Il risultato dovrebbe far risparmiare circa 50.000 tonnellate annue di CO2 e di tante altre sostanze nocive emesse dall'impianto dell'inceneritore. Ecco, gli attuali indipendenti dell'inceneritore in via di chiusura dovrebbero trovare una ricollocazione in altre attività del nascente ecodistretto del riciclo e dell'energia. Sempre in tema ambientale, diciamo, è iniziata questa settimana anche l'iter parlamentare di una nuova legge in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, una proposta di legge per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometri zero. La proposta, spiega Ermete Realacci, primo firmatario, intende promuovere l'agricoltura di qualità legata al territorio, alla stagionalità dei prodotti, alla sana alimentazione e ai mercati locali. Tra gli scopi della legge c'è l'aumento del consumo di alimenti provenienti da filiera corta, che garantisce la qualità ambientale superiore del prodotto alimentare, connessa al ridotto carico di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto in tutta Italia. Per promuovere e garantire questa forma di commercio, la legge istituisce e regolamenta il marchio di filiera chilometro zero. Per concludere, due brevi notizie di appuntamenti. Latterie aperte in Valbelluna è l'evento promosso dalla comunità montana Valbelluna e dalla strada dei formaggi e dei sapori delle Dolomiti bellunesi per domenica 26 maggio. Saranno visitabili le latterie di Sedico, Camolino, Lentiai, Frontin, frazione di Trecchiana, e in comune di Limana, nella frazione di Valmorel. Dalle 9 alle 14 sarà possibile degustare i prodotti delle latterie e assistere alla lavorazione di burro, ricotta e formaggi. Sempre il 25 e 26 maggio a Mestre, presso la centrale Plip di via San Donà 195B, si tiene il Tutto da Rifare, Festival del Riuso e del Riciclo Creativo. Informazioni sul sito www.tuttodarifare.it. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e potete riascoltarci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.